Esiste una camera segreta sui colli fuori Porta San Mamolo. Si tratta della Cisterna di Valverde, ingegnosa opera realizzata nel 1564 dallo stesso Tommaso Laureti, del quale abbiamo appena avuto modo di parlare. Lo scopo? Alimentare non solo la Fontana del Nettuno, ma fornire acqua anche alla Vasca dei Cavalleggeri all'interno di Palazzo d'Accursio, alla Fontana Vecchia, quella a ridosso delle mura del Palazzo Comunale sul lato di via Ugo Bassi, ricordate? Al Pozzo del Terribilia e che servì persino a Ulisse Aldrovandi per fornire acqua al suo Giardino dei Semplici. Delle quattro grandi vasche che servivano il Giardino Botanico, solo una è sopravvissuta alle numerose ristrutturazioni dell'area. Oggi ricordiamo Biblioteca Sala Borsa. Si trova sulla sinistra delle grate metalliche, sostenuta da un profilato bianco, al punto che sembra sospesa in aria. In passato è stata utilizzata dalla Cassa di Risparmio come cavò. Il sistema di raccolta e distribuzione dell'acqua ideato da Laureti è unico al mondo e permise a Bologna di approvvigionarsi di acqua pulita per la prima volta dal tramonto dell'Impero Romano. Grazie al sistema di captazione delle acque, in grado di sfruttare le vene sotterranee, l'acqua che arrivava in città era così pulita che permise di arginare le ripetute epidemie di colera che dilagarono in Europa nell'Ottocento. Una curiosità. Poco dopo l'inaugurazione della fontana, questa divenne crocevia di artigiani, acquaioli e persino commercianti di ortaggi, che arrivarono a rivendere l'acqua sostenendo che fosse perfetta per cuocere i fagioli. Per fermare le speculazioni e per motivi di ordine pubblico e di decenza, il Senato bolognese stabilì delle pene corporali piuttosto severe. 50 frustate ai bambini che utilizzavano la fontana per farsi il bagno o alle donne che la sfruttavano come lavatoio, mentre agli uomini era riservato il supplizio del tratto di corda. Ne abbiamo parlato nel primo capitolo. Si trattava di una procedura che consisteva nel legare i polsi del reo dietro la schiena, per poi issarlo per mezzo di una carrucola, provocando la slogatura delle braccia all'altezza delle spalle. Spesso la conseguenza era la storpiatura a vita. La Cisterna di Valverde è formata da una vasca principale dalla forma ottagonale, da quattro condotti ciechi che salgono in direzione delle colline per raccogliere acqua e tre conserve di raccolto, collegate tra loro. Seguendo un suggestivo corridoio sotterraneo di circa 2 chilometri, nonostante alcuni tratti siano allagati, franati e in parte occlusi da smottamenti e dall'intervento dell'uomo, è possibile sbucare proprio in Piazza del Nettuno. Fate caso alla botola di metallo che si trova sulla pavimentazione stradale, in posizione frontale rispetto alla figura del gigante. Ecco, quella è la botola d'accesso ai sotterranei. Curiosamente, nel corso dei secoli, l'esistenza della cisterna è stata progressivamente dimenticata. Fu riscoperta il secolo scorso e scambiata per un impianto termale romano. Da questo equivoco nacque l'altro nome con cui è conosciuta, Bagni di Mario. La Cisterna di Valverde merita assolutamente una visita, anche se l'accesso al pubblico è consentito in rare occasioni. Pur non essendo mai stata restaurata in quasi 500 anni, mantiene intatto il suo grande fascino di grande opera del passato, con i suoi pozzi verticali ricoperti di stupefacenti formazioni calcaree e i suoi suggestivi affreschi rinascimentali, i quali, seppur logorati dal tempo e dalla mancanza di manutenzione, hanno ancora oggi un forte impatto emotivo. La patria della goliardia.